qualche nume, qualche stella al fine, ne darà qualche aiuto. Il cielo sempre da tre saette armato, non fulmina sdegnato. Ma puoi soffrir finché non cangia tempre,